Siamo in missione per conto di Dio. "24 mattino" di Luca Telese. Andato a seguire la partita della Roma, a un certo punto Mertens prende la palla, sapete che è molto basso, è un giocatore straordinario perché è piccolo, dribbla, è un folletto, e si alza uno dalla tribuna Tevere, un signore anziano, e urla: "A Chihuahua!" Attenzione, per la Lazio c'è la Frank, per la Juventus c'è la Camorra. Molto ipocrita di andare con le magliette, regalare il libro di Anna Frank, ma basta. Secondo me Anna Frank col suo sorriso ha bucato. Ha bucato come un'opera d'arte di Andy Warhol, è stata, come dire, più che altro commercializzata. E il diario di Anna Frank, brandendolo come una bistecca fiorentina in mezzo al campo, non è poi così edificante. Di Battista. Ecco, è un racconto di un paese incapace di avere misura. Oscar Giannino è lì davanti a me, possente. Poi addirittura, no, perché? No. Eh beh, perché ti vedo carico. Guarda, visto a qua, hai qualcosa di ascetico. Francamente il mix che avete fatto da Grillo a Prima eccetera, cioè, sembra una cosa da un spettacolo. Cioè, ma è un paese serio questo? Pagare i pannolini, caro, caro Purgatori, è molto più importante dei Kennedy. Che la minchia sia con voi è un bello slogan per il prossimo millennio. E è bello quando qualcuno trova la forza di ribaltare un presunto handicap e lo trasforma in un talento. Popolo dei Giasvegli, buongiorno. Ce n'è di cose da dire oggi, eh? Arrivano i Kennedy Files, se ne va dal PD il Presidente del Senato, una cosetta non da poco, segno di protesta contro la fiducia e contro la legge elettorale, viene riconfermato Visco, chissà come soffrirà Renzi, che però era su un pulpito di una chiesa a predicare, e attenzione, esplode una polemica che sembra marginale di costume ma è importantissima. Secondo il ministro Fedeli, i 14 anni, o almeno fino ai 14 anni, i bambini non possono tornare a scuola da soli, che sembra una cosa incredibile e forse è un segno totalmente controcorrente rispetto al costume, alle regole, alle esigenze delle famiglie. Quindi sono quattro cose che ci danno molto a pensare oggi, e noi siamo contenti di avere qui Federico Rampini. Appena arrivato, sbarcato in libreria con le linee rosse, uomini, confini, imperi, le carte geografiche che raccontano il mondo in cui viviamo. Ma prima di entrare, come dire, nel suo libro e nel fritto misto della giornata, vorrei chiedere a Rampini, ma che cosa c'è davvero di importante in queste rivelazioni su Kennedy? Non sapevamo già tutto? Ma credo di sì, francamente adesso non ho certo avuto il tempo di sfogliare queste centinaia di pagine, tra l'altro scritte anche spesso in un linguaggio un po' criptico dall'FBI, dalla CIA, però insomma gli esperti non si aspettano grandi rivelazioni, qualcosa magari più sui tentativi di assassinare Fidel Castro, se ho capito bene, cioè vicende collaterali. Di certo non la rivelazione da qualcun altro insieme a Lee Oswald. Ecco, non ci sarà il segreto sul delitto. No, non credo. Allora, le linee rosse che cosa sono? Ci sono mappe in questo libro, un librone imponente, e c'è un come il resto della temperatura di una matita che racconta il mondo. Che cos'è? Quella copertina, sì. Sì. 450 pagine, un po' scherzando, un po' sul serio, direi che è 60 anni che lo scrivo questo libro, perché c'è dentro anche tutta la mia vita, una vita da nomade globale, viaggi, di aree di vita all'estero, quasi tutta la mia vita in paesi lontani, tanti viaggi anche da giornalista, anche in luoghi remoti come la giungla delle Filippine, dove il fondamentalismo islamico rapisce un missionario cattolico, la Birmania dei tempi in cui Lady Aung San Suu Kyi ancora ci faceva sognare ed era agli arresti domiciliari, insomma tanti diari di viaggio che possono forse servire al lettore anche come stimoli, come guide, ma poi un lavoro sulla geografia. Credo che dobbiamo tornare a studiare geografia in modo diverso da come ce l'insegnavano sui banchi di scuola, almeno io sono cresciuto all'estero, ma me la ricordo un po' noiosa la geografia scolastica. Poi ti chiederò qualcosa in particolare sul capitolo 13, la globalizzazione raccontata dal Prosecco, che è un bel, come dire, tilt fra... Anche il Prosecco racconta la globalizzazione. Certo, dunque, questo è un libro in cui da una parte affronto i grandi scenari, i grandi quadranti dell'Atlante, l'America, la Cina, la Russia, l'Europa germanica, l'India e così via. Poi però ci sono invece dei capitoli più tematici. La globalizzazione del Prosecco è un titolo un po' ironico che racconta un fenomeno di cui gli italiani che vivono in Italia non sono così consapevoli quanto noi espatriati. Il mondo intero vuole vivere come noi. C'è un fascino dello stile di vita italiano. Alcune punte dell'iceberg sono ovviamente i consumi del prosecco, del vino italiano, dell'alimentazione, la dieta mediterranea, il mangiare bene all'italiana, ma poi ci sono anche attrazioni più profonde di una qualità della vita che tanti ci ammirano. Il paradosso è che questa l'operazione prosecco la racconto proprio, anche questa c'è un pezzo di autobiografia. Arrivai quasi 20 anni fa a San Francisco, andai a vivere in California e nessuno conosceva il Prosecco, in una zona peraltro abbastanza esperta in fatto di vini. 2 anni dopo il mio arrivo non c'era un solo bar della periferia dove di San non Francisco si servisse il Prosecco. Una guerra lampo di conquista del mondo. Vedi, e i veneti sono anche questo. Per fortuna, allora entriamo insieme nel fritto misto della giornata con la notizia di Grasso che se ne va. Mercoledì 25 ottobre Grasso diceva: a volte è più difficile restare che una fuga vigliacca, e aveva già meditato, pensate, di andar via, di uscire dal gruppo in cui si era iscritto. E però l'eroe del giorno, Mefistofele, dice Filippo Ceccarelli su Repubblica, è lui, Denis Verdini. Oggi si dice che si è realizzata una maggioranza con l'uscita di Articolo 1 e col nostro ingresso. Non è vero, non è vero, perché noi c'eravamo, ci siamo stati e ci saremo. E vai. Noi siamo quelli che hanno consentito al Paese di fare uno scatto in avanti sul fronte dei diritti, rendendo possibili unioni civili, e avremmo votato anche la stepchild adoption, così come voteremo il testamento biologico quando e se arriverà in aula. Per quel che mi riguarda, ma lo dico a titolo strettamente personale, io sarei pronto a votare lo Ius Soli anche domani. Verdini, padre dei diritti civili, che dici Federico Rampini? È un nuovo abito che si addice a questo monaco? Ma da Verdini al caso Grasso, quello che mi colpisce soprattutto è un elemento in comune con le carte geografiche della sinistra europea che perde i pezzi, si spappola, perde consensi. In Italia si divide, perché questa poi è una specialità italiana. Ma insomma è un problema comune in tutto l'Occidente, una fase di gravissima crisi della sinistra. Ecco lo scoop di Tagada che ha estorto dopo giorni, perché dobbiamo raccontarlo, in cui c'era un caos, circolari, presi di furibondi, chiamate i carabinieri. La Fedeli ha parlato. Posso dire che è anche un grande piacere per i nonni andare a prendere i nipotini. Io lo considero una cosa fantastica, potessi farlo. Ma il bello è che se non lo puoi fare tu, Valeria, non è che lo possono fare anche gli altri. E i genitori, e le madri. E poi perché un bambino improvvisamente non dovrebbe tornare più solo da scuola? Lo dico avendo un figlio di 11 anni che se lo vai a prendere ti spara. E Federico, nelle scuole americane non si discute minimamente questa cosa. Antica ma sempre capillare degli scuolabus, famosi autobus gialli, molti genitori, del resto i genitori che lavorano non avrebbero il tempo, all'ora in cui i bambini vanno a scuola loro stanno già sul percorso verso il luogo di lavoro, l'ufficio, la fabbrica. L'altro aspetto che credo, almeno a me viene il sospetto che ci sia un timore per la sicurezza dei bambini in un paese dove evidentemente l'ordine pubblico non è così garantito come non dovrebbe essere. Non è più essere. Come una volta. Non c'è più la sicurezza. Forse questa è la chiave. Sentite, Renzi in chiesa è entrato a Pestum, fuori pioveva e si sono seduti. De Luca è, come dice Grambellini, ha recitato il Vangelo secondo De Luca, non secondo Luca. Perdere il fiato di fronte ai tempi, o andare al Pompei, o andare nella bellezza di Capri, o della Reggia di Caserta, o tutto ciò che è stato delle coste del Cilento, tutto quello che sappiamo. Bene, immaginate che cos'è per una persona arrivare qui e vedere in Italia. Significa vedere il faro di gentilezza e civiltà nel mondo. Ed è bellissimo. Chiudo. La Meloni furibonda per il Rosatellum, legge liberticida. La legge elettorale approvata ieri dall'Aula del Senato è per Fratelli d'Italia una legge liberticida, una legge che impedisce ai cittadini di scegliere il loro governo, di scegliere i loro rappresentanti, che molto probabilmente consegnerà l'Italia all'ingovernabilità. Noi non l'abbiamo votata e siamo fieri di essere rimasti l'unico partito dell'arco costituzionale a non essersi mai seduto a trattare queste vicende con Renzi. Renzi risponde così: la legge si vota con chi c'è. La legge elettorale si vota con chi ci sta. La gente, secondo me, sta sbagliando a casa se non sta tamponando quello davanti. Ma di che cosa stiamo discutendo? La legge elettorale è chiaro che si vota anche con le opposizioni. Ci avevamo provato anche con le riforme costituzionali e con l'Italicum prima che Berlusconi improvvisamente cambiasse idea. Non si sa bene perché. Il Papa agli astronauti, conversazione alta e quasi surreale, poetica, con Paolo Nespoli e gli astronauti della stazione spaziale. Voi siete un piccolo palazzo di vetro, eh? La totalità è più grande della somma delle parti. E questo è l'esempio che voi ci date. Grazie tante, cari amici. Vorrei dire ai cari fratelli, perché vi sentiamo come rappresentanti di tutta la famiglia umana nel grande progetto di ricerca che è la stazione spaziale. Santo Padre, è un grande onore parlare con usted. Federico Rampini, il Papa è ascoltato anche oltreoceano? Quanto fa notizia Papa Francesco? Dunque, pensa, per ricitare il mio libro Le linee rosse, c'è un capitolo dedicato anche a questa superpotenza che è il Vaticano. La geografia del soft power della Chiesa Cattolica. E la ripercorro anche nella storia, ricordo la battuta fulminante di Stalin durante la Seconda Guerra Mondiale, che in tono beffardo disse: ma quante divisioni ha il Papa? Intendeva divisioni blindate da schierare, certo, al fronte. Naturalmente nessuna, però abbiamo avuto un Papa Wojtyła, polacco, che in alleanza con Ronald Reagan ebbe un ruolo determinante per la fine della guerra fredda e far cadere il muro di Berlino. Bergoglio ha avuto un momento di sintonia con un presidente americano, Barack Obama. Adesso è molto più isolato dal punto di vista geopolitico. Negli Stati Uniti, in effetti, lo si ascolta poco, non fa certo notizie come qua. Allora, sentite invece Richetti, stupito per l'abbandono di Grasso. Richetti, numero 2 PD in questo momento. No. Il comportamento di chi presiede i rami del Parlamento non va giudicato da parte dei partiti e delle forze politiche. Io non ero a conoscenza di questa scelta, l'ho preso dalle agenzie e devo dire che le motivazioni che portano a questo lei le deduce. Io preferisco sentirle direttamente dal Presidente del Senato. E il colpo di scena simbolico celebrato da Salvini a Piazza Pulita, che ieri nella notte faceva schizzare il suo nome nella classifica dei social e di Twitter. Siglia, ci presentiamo, c'è la lista Musumeci Presidente, noi con Salvini, perché nell'ambito del centrodestra diamo una speranza di cambiamento anche lì. Prevale l'anima alle di elezioni Salvini, no, alle elezioni non so se saranno febbraio, marzo, non ho capito quando sono le elezioni, ci sarà la Lega. Punto, Lega, in tutta Italia. Senza Nord, ma senza attenzione. Nord. Scusi, io vado a Taranto come Lega Nord. È abbastanza un'antinomia. E con la Lega senza Nord, l'ultimo strappo simbolico di Salvini, ci fermiamo per le strade in diretta e torniamo subito dopo con Federico Rampini e i Già Svegli. Facciamo un avvertimento sindacale, è immorale alzarsi a quest'ora. Mattino. E Già Svegli. Già Svegli. La mia grande passione è quella di vedere la Corte Costituzionale pronunciarsi prima delle elezioni su questa nuova legge elettorale. Sono le 7:15, sto andando in ospedale, faccio il primario e tolgo i tumori della pelle. Viva la dermatologia! Buongiorno Telese, sono già davanti alla mia fabbrica, fra un po' entrerò a fare schede elettroniche, a collaudarle, e sono strafelice perché mi mancano solo 17 anni, visto che ho 50 anni, per andare in pensione. Saluta Oscar. Sono già sveglio perché mi aspettano 140 km di autostrada prima di arrivare in ufficio al lavoro. Però non viaggio mai da solo perché mi accompagna sempre il pensiero della donna che amo. Purtroppo lei non mi ama. Un eroe romantico pazzesco questo, fa 100 ogni giorno, 140 chilometri, 120, pensando alla donna che ama, che però non lo ama, ma merita un premio. Buongiorno, io sono al bar sotto casa perché la donna che amo, Riamato, sta dormendo e quindi sono uscito col cane e sto qui sotto perché mia figlia di 2 anni e mia moglie dormono, io non posso svegliarle. E allora, i Già Svegli alla vostra segreteria telefonica preferita 02 30 22 44 92 e qui con Federico Rampini gli chiedo, lui quando si sveglia la mattina? Io c'ho un problema, dipende in quale parte del mondo mi trovo, passo un quarto della mia vita su aerei voli intercontinentali, afflitto, inseguito da un jet lag semipermanente, quindi ho dei sonni non proprio tranquilli. Bellissimo. Ma mi sveglio molto presto di solito, anche perché sto rincorrendo stamattina per esempio il prossimo volo per New York. Beh, fantastico. E ti volevo chiedere un altro capitolo che secondo me è veramente sembra ritagliato sul dibattito di queste ore, è quello sui confini mobili delle democrazie, che noi siamo abituati a immaginare immutabili e invece tu con tanto di mappe spieghi sono continuamente in movimento. Tra le linee rosse che traccio sugli Atlantici c'è quella proprio delle liberal democrazie. Abbiamo vissuto un'epoca di espansione di questi confini. Il momento più travolgente ovviamente fu dopo la caduta del muro di Berlino, quando metà dell'Europa improvvisamente passò dalla parte delle democrazie. Ma prima ancora c'era stata la democratizzazione del Sud America, delle dittature di destra europee come Portogallo, Gallo, Grecia e Spagna, del Sudafrica di Mandela. Adesso abbiamo imboccato la retromarcia. Rapporti autorevoli come quello di Freedom House, che mi aiuta a tracciare la mappa la mappa delle democrazie, dice che stanno diminuendo a vista d'occhio, poi racconto in un capitolo il benessere illiberale del sud-est asiatico, zona che si sta sviluppando a ritmi forsennati quanto la Cina, ma con paesi come le Filippine che tornano ad essere dittature, altri come Singapore che non hanno mai smesso di essere, e poi la grande delusione della Birmania che racconto partendo da un mio viaggio in quel paese tanti anni fa, quando ancora Lady Aung San Suu Kyi era agli arresti domiciliari, poi ricevette il Nobel per la pace e lei stessa è stata una grande delusione. Battuta meravigliosa e ci arriva via messaggio al 349-238-6666. Cari Luca e Federico, i nonni non possono più andare a prendere i bambini a scuola perché devono continuare a lavorare fino a 67 anni. E a che età si va in pensione in America? Bella domanda a cui non esiste una risposta univoca, perché l'America ha un sistema molto più flessibile del nostro, non esiste davvero un'età pensionata, diciamo obbligatoria, per andare in pensione, certamente non per tutte le categorie. Grosso modo la media va in pensione tra i 67 e i 70 anni, ma è molto flessibile perché è un sistema praticamente contributivo puro, cioè se uno ha contribuito abbastanza e ritiene di potersene andare in pensione, può andare via. A 60 anni può andare via. Se uno vuole continuare a oltranza, nessuno glielo impedisce. Ah, vedi? Queste sono cose interessanti. Sentiamo D'Alema ieri sulla legge elettorale. Caustico. Come adesso la signora Brambilla, ma anche la fidanzata di Berlusconi, hanno un particolare amore per i cagnolini, eccetera, pare che facciano la lista degli animalisti, no? Allora, voi troverete sulla scheda, accanto al simbolo della Lega Nord, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, la lista degli animalisti. Se uno vota per la lista degli animalisti, perché dice, ma accidenti, anch'io sono animalista, e la lista degli animalisti non raggiunge il 3% nazionale, in tutti i paesi civili dove esiste una soglia, i voti delle liste che non raggiungono la soglia vengono scartati. Qui no, qui si è studiato un sistema, i voti vengono trasferiti ai partiti alleati. Cioè, voi votate per un partito e con il vostro voto eleggete il deputato di un altro partito. È fantastico. La battutaccia era: voti gli animalisti, eleggi un animale. Però la domanda che ho per Federico è il suo capitolo sulla politica, in cui dici, torna alle tribù. La politica, parli di quella americana, ma si presta benissimo anche per quella italiana. Il ritorno alle tribù, che cosa vuol dire? Beh, lo racconto descrivendo il mio viaggio nell'America profonda che ha votato Donald Trump, la tribù di destra, che ha anche un confine geografico ben preciso, perché è l'America di mezzo, c'è proprio una suddivisione territoriale, le tribù occupano le proprie riserve indiane. Le due coste votano sempre a sinistra, tutto quello che sta in mezzo vota a destra, gli intellettuali radical chic definiscono quell'America lì flyover country, il paese che si sorvola perché ci fa un po' schifo, prendiamo l'aereo per andare da una costa all'altra e quella roba che sta lì in mezzo la guardiamo dal finestrino dell'aereo un po' disgustati. Le due tribù, il problema della democrazia è che non comunicano più, attingono informazioni a fonti diverse, gli americani di destra guardano solo la Fox News, non si sognerebbero mai di leggere il New York Times o di guardare la CNN, e quindi vivono in due universi separati. Usano linguaggi separati e spesso si riconoscono, cioè nel codice tribale ad esempio è importantissimo per... Ma Baleo, impara a parlare e impara la grammatica prima di leggere i giornali.